A Grattevast, dove abitava sua sorella, dalla quale era andato a passare il pomeriggio, saliva a volte il signor Pierre de Verjus, conte di Crécy, che veniva chiamato soltanto conte di Crécy, gentiluomo povero, ma di straordinaria distinzione, di cui avevo fatto la conoscenza tramite i Cambremer, ai quali d'altronde non era molto legato. Ridotto a una vita estremamente modesta, quasi misera, capivo che un sigaro, una consumazione, gli riuscivano oltremodo graditi, tanto che presi l'abitudine, i giorni in cui non potevo vedere Albertine, di invitarlo a Balbec. Molto fine, eccellente conversatore, tutto bianco con due incantevoli occhi azzurri, parlava soprattutto a fior di labbra, con grande delicatezza, degli agi della vita signorile che evidentemente aveva conosciuti, nonché di genealogie. Poiché gli chiedevo cosa fosse inciso sul suo anello, rispose con un sorriso improntato a modestia: «È un ramo d'agresto, di Verjus». E assaporando ogni parola, aggiunse: «Le nostre armi sono un ramo di Verjus, simbolico, dato che mi chiamo Verjus, con fusto e foglie di sinoplo». Ma credo che sarebbe rimasto deluso se a Balbec gli avessi offerto da bere soltanto del Verjus. Amava i vini più costosi, probabilmente perché se ne doveva privare, perché conosceva bene ciò di cui doveva fare a meno, per passione, forse anche per un'inclinazione eccessiva. Così, quando lo invitavo a pranzo a Balbec, sceglieva le portate con una scienza raffinata, ma mangiava un po' troppo e soprattutto beveva, ordinando che portassero a temperatura ambiente i vini che devono esserlo, che mettessero in ghiaccio quelli che lo esigono. Prima del pranzo e dopo indicava la data o il numero che desiderava per un porto o per un'acquavite, così come avrebbe fatto per l'erezione, generalmente ignorata, d'un marchesato che gli conosceva altrettanto bene. Dato che ero uno dei suoi clienti preferiti, Aimé era felice che io offrissi quei pranzi extra e gridava ai camerieri: «Svelti, preparate il tavolo 25!» Anzi, non diceva «preparate», ma «preparatemi», come se fosse stato per lui. E poiché il linguaggio dei maîtres non è assolutamente lo stesso dei capisala, sottocapi, aiutanti, eccetera, quando chiedevo il conto, lui diceva al cameriere che ci aveva serviti, con un gesto ripetuto e rassicurante del dorso della mano, come se avesse voluto calmare un cavallo che morde il freno. «Non andateci troppo forte con il conto, andateci piano, molto piano». Poi, non appena il cameriere se n'era andato munito di questo promemoria, Aimé, temendo che le sue raccomandazioni non venissero seguite a puntino, lo richiamava: «Aspettate, ci penso io». E siccome gli dicevo che non aveva importanza, «è un mio principio che, come si dice volgarmente, non bisogna spennare il cliente». Quanto al direttore, vedendo gli abiti semplici, sempre gli stessi e un po' logori, del mio ospite, e pensare che nessuno avrebbe praticato meglio di lui l'arte di vestirsi fastosamente come un elegante di Balzac, se ne avesse avuto i mezzi, si limitava, per causa mia, a ispezionare da lontano se tutto andava bene e con un'occhiata a far mettere una zeppa sotto una gamba del tavolo se zoppicava. In realtà, sebbene tenesse nascosti i suoi esordi come sguattero, avrebbe saputo dare una mano come chiunque altro. Ma ci volle una circostanza eccezionale perché un giorno trinciasse di persona certi giovani tacchini. Io ero uscito, ma seppi che l'aveva fatto con maestà sacerdotale, circondato a rispettosa distanza dalla credenza da una cerchia di camerieri non tanto desiderosi di imparare quanto di mettersi in buona luce e con i volti atteggiati a una sorta di beata ammirazione. D'altronde il direttore, che affondava con un gesto lento nel fianco delle vittime e non ne distaccava gli occhi compenetrati della sua alta funzione esattamente come se avesse dovuto leggervi qualche auspicio, non li vide per niente. Non s'accorse nemmeno il sacrificatore della mia assenza. Quando apprese che non c'ero, ne fu desolato. «Come, non mi avete visto trinciare personalmente i tacchinotti?» Gli risposi che, non avendo potuto vedere sino a quel momento Roma, Venezia, Siena, il Prado, il Museo di Dresda, le Indie, Sara in Fedre, conoscevo la rassegnazione e avrei aggiunto alla mia lista la sua trinciatura dei tacchinotti. Il paragone con l'arte drammatica, Sarah in Phèdre, fu il solo che gli parve capire, giacché sapeva da me che nei giorni delle grandi prime Coquelin, ahimè, aveva accettato parti di debuttante, persino quella d'un personaggio che dice una sola frase o niente del tutto. In ogni caso mi dispiace moltissimo per voi. Quando trincerò di nuovo, ci vorrebbe un avvenimento, ci vorrebbe una guerra. Ci volle in effetti l'armistizio. Da quel giorno il calendario mutò. Il tempo fu calcolato così. È stato il giorno dopo che ho trinciato personalmente i tacchinotti. È stata una settimana giusta dopo che il direttore ha trinciato personalmente i tacchinotti. Quella prosettomia, insomma, segnò, come la nascita di Cristo o l'Egira, l'inizio di un calendario diverso dagli altri, che tuttavia non raggiunse la loro estensione e non uguagliò la loro durata. La tristezza dell'esistenza del signor di Crécy derivava non meno che dal non aver più cavalli e una tavola succulenta, dall'essere attorniato soltanto da persone capaci di credere che Cambremer e Guermant fossero la stessa cosa. Quando vide che sapevo come Le Grandin, il quale adesso si faceva chiamare Le Grande Meseglise, non ne avesse alcun diritto, ebbe, ravvivata d'altronde dal vino che beveva, una specie di esaltazione gioiosa. Sua sorella mi diceva con aria sagace: «Mio fratello non è mai così felice come quando può conversare con voi». In effetti, si sentiva rivivere da quando aveva scoperto una persona conscia della mediocrità dei Cambremer e della grandezza dei Guermant, una persona per cui l'universo sociale aveva una sua consistenza. Così, dopo l'incendio di tutte le biblioteche del globo e l'ascesa ad una razza totalmente ignorante, un vecchio latinista ritroverebbe il senso e il gusto della vita sentendo qualcuno citargli un verso d'Orazio. Se non lasciava mai il vagone senza chiedermi a quando la nostra piccola riunione, non era soltanto dunque per avidità di parassita, ma anche per golosità di erudito e perché considerava le agapi di Balbec come un'occasione per conversare intanto sugli argomenti che gli erano cari e di cui non poteva parlare con nessuno, e come un corrispettivo in questo di quei pranzi in cui si riunisce a date fisse davanti alla tavola singolarmente succolenta del circolo dell'Unione la società dei bibliofili. Così modesto per quanto concerneva la sua famiglia, non fu il signor di Crécy a informarmi che essa era di gran lignaggio, un vero e proprio ramo, staccato in Francia, della famiglia inglese che porta il titolo di Crécy. Quando seppi che era un autentico Crécy, gli raccontai che una nipote di Madame de Guermont aveva sposato un americano di nome Charles Crécy, aggiungendo che supponevo non avesse nessun rapporto con lui. Nessuno, mi confermò. Non più, ma del resto la mia famiglia non è altrettanto illustre, di quanti molti americani che si chiamano Montgomery, Barry, Chandos o Capel abbiano rapporti con le famiglie di Pembroke, di Buckingham, di Essex o con il duca di Berry. Pensai più volte di dirgli, per divertirlo, che conoscevo Madame Swann, la quale come Cocotte era conosciuta un tempo col nome di Odette de Crécy. Ma anche se il duca di Alençon non avrebbe certo potuto seccarsi che gli si parlasse di Emilienne d'Alençon, non mi sentivo abbastanza in confidenza col signor di Crécy per condurre uno scherzo sino a quel punto. «È di grandissima famiglia», mi disse un giorno il signor di Montsouvain, «il suo patronimico è Saylor». E aggiunse che sul suo vecchio castello sopra Ancarville, diventato peraltro quasi inabitabile, che lui, benché ricchissimo di nascita, era oggi troppo in miseria per poter restaurare, si leggeva ancora l'antico motto della famiglia. Lo trovai molto bello, quel motto. Lo si applicasse all'impazienza d'una razza da preda annidata lassù, da dove probabilmente un tempo spiccava il volo, oppure oggi alla contemplazione del declino, all'attesa della morte prossima, in quel rifugio dominante e selvaggio. E in effetti, su tale doppio senso, gioca col nome di Saylor quel motto che è «non so l'ora». A Ermenonville, qualche volta, saliva il signor di Chevregny, il cui nome, ci spiegò Brichot, significava come quello di Monsignor di Cabrières, luogo dove si radunano le capre. Era parente dei Cambremer e per questo, oltre che per una falsa valutazione dell'eleganza, costoro lo invitavano spesso a Féterne, ma solo quando non avevano invitati su cui far colpo. Vivendo tutto l'anno a Beausoleil, il signor di Chevregny era rimasto più provinciale di loro. Così, quando andava a passare qualche settimana a Parigi, non sprecava una sola giornata, con tutto quello che c'era da vedere. Al punto che a volte, un po' stordito dal numero di spettacoli digeriti troppo in fretta, se gli chiedevano se avesse visto una certa commedia, gli capitava di rispondere di non esserne ben sicuro. Ma tanta vaghezza era rara, perché conosceva le cose di Parigi con la minuziosità tipica di chi ci va di rado. Mi consigliava le novità da andare a vedere, ne vale la pena, considerandole del resto dall'esclusivo punto di vista della serata piacevole che vi fanno trascorrere, mentre dal punto di vista estetico era talmente ignorante da non sospettare nemmeno che di fatto potessero a volte costituire una novità nella storia dell'arte. Così, mettendo tutto sullo stesso piano, ci raccontava: «Una volta siamo andati all'Opéra Comique, ma lo spettacolo non è granché. Si intitola Péléas et Mélisande. Insignificante. Perrier è sempre bravo, ma è meglio sentirlo in qualcos'altro. Al Gymnase, in compenso, danno la Châtelaine. Ci siamo tornati due volte. Non mancate d'andarci, merita d'essere vista. E poi l'interpretazione è superba. Ci sono Frévaille, Marie Magnier, Baron Fis. Mi citava anche nomi di attori che non avevo mai sentiti. E senza farli precedere da signore, madame, mademoiselle, come avrebbe fatto il duca di Guermont, il quale parlava con lo stesso tono di cerimonioso disprezzo delle canzoni di mademoiselle Yvette Gilbert e delle esperienze del signor Charcot. Il signor di Chevregny non seguiva questa usanza. Diceva Cornaglia ed è lì come avrebbe detto Voltaire e Montesquieu. In lui, infatti, riguardo agli attori come a tutto quanto fosse parigino, il desiderio dell'aristocratico di mostrarsi sprezzante era vinto da quello del provinciale di apparire di casa.